dovresti tapparti la bocca, morderti la lingua, sciacquarti la faccia con l'acqua di Hiroshima. Di prima mattina appena sveglio, che bello, bisogno della dose e di oggetti impegno. In circolo nel sangue, solo nicotina. Tu circoli per strada come apri e chiudi fila. La carta e soldi e la moneta, ne vuoi di più e finisce che la spreca e impreca. Dio è sordo, in croce tra l'isfero luna, bandiera americana. Sei messo male come quando cerchi più grana. Chiedi a Charlie che ha perso la guerra. Io sto nella Pet Company e non batti questa merda. Non credo allo Stato che promette un buon futuro. Non credo alla Chiesa che non punisce l'abuso. In disuso, la croce la vedi capovolta. Ormai va di moda, fa tendenza, si sporca col pennarello. Dio di cazzo sei, Dio di cazzo sei, Dio di cazzo sei, spali la merda. Dio di cazzo sei, Dio di cazzo sei, spali la merda. Tondo troppo torto, soldo sporco.